Dopo 25 anni di presenza attiva sul territorio, lo storico centro sociale Cortocircuito rischia di essere sgomberato. Contro la privatizzazione del patrimonio pubblico sostieni e difendi il Cortocircuito e tutti gli spazi liberati e autogestiti. Per continuare a lottare contro lo sgombero del corto, partecipa al corteo di venerdì 23 ottobre, partenza alle ore 17 da Piazza di Cinecittà, uscita metro A Sub-Augusta. Seguici sui social e firma su change.org la petizione Ricostruiamo il Cortocircuito, fermiamo lo sgombero. Partecipazione è resistenza, perché senza corto non so stare.